Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Siamo ogni sabato a dircelo che non ci sono più le mezze stagioni. Tra poco vi dirò anche un motivo di questa volta per cui possiamo confermarlo. Diciamo, questa frase fatta in realtà mica tanto fatta, è stata fatta apposta proprio perché appunto la realtà è quella che è. Insomma, dopo tutto questo giro di parole che siamo qua a fare come sempre, a commentare ulteriormente il sabato con calma e libertà i fatti della settimana, con numero verde sempre a vostra disposizione, 800 24 00 24. Per esempio, che cosa vi ha colpito di più? Vi tiene più sulla corda, per esempio, la tensione politica all'interno della maggioranza, nonostante la fiducia sia alla Camera che al Senato? Insomma, naturalmente è una situazione in grossa fibrillazione. Oppure vi incuriosisce di più, magari vi inquieta, questo possibile asse sempre più probabile tra PD, Finiani e UDC? Oppure il tentato agguato al direttore di Libero Belpietro? Oppure gli insulti a ebrei, romani, torinesi, quello che volete, le bestemmie, cioè insomma praticamente il dibattito culturale, diciamo, della politica italiana, o anche fatti di cronaca, come quello che è successo, non so se lo sapete, tra due sorelle, una che abita in Nuova Zelanda, una medica, e l'altra che si chiama Paola, no, è Alessandra, l'altra che sta a Padova, e quella in Nuova Zelanda si è ammalata di leucemia, è una medica, ha chiesto alla sorella di un trapianto di midollo, ma questa si è rifiutata, non lo so, avrà i suoi motivi, le sue ragioni, la sua paura, e insomma è scoppiato un po' uno scandalo, l'hanno un po' perseguitata a Padova con dei striscioni, dei cartelli eccetera eccetera. Cosa ne pensate anche di questo caso? Oppure fatto l'elemora, corona, ognuno proprio coi propri gusti, con la propria sensibilità, ecco, può chiamarmi all'800 24 00 24 e raccontare un po' la sua opinione sui fatti della settimana. Ma come sempre, cerco una conferma, il fatto che non ci siano più le mezze stagioni. E questa settimana la sto andando a cercare, è che anche i buchi neri non sono più neri. Uno pensa, come? Il più grande mistero dell'universo, quello dei buchi neri, non sono più neri. No, è così. Già l'aveva un po' prospettato lo scienziato Stephen Hawking, forse qualcuno appassionato di scienze ed astronomia se lo ricorderà. Aveva detto, no, i buchi neri a un certo punto, per come sono fatti, si dileguano. Il buco nero, sapete, nasce quando muore una stella. Anche le stelle muoiono, tutti muoiono, anche le stelle. E quando muoiono, soprattutto se sono state molto luminose in vita, cosa fanno? Se hanno una massa, avevano una massa superiore a una certa quantità, allora questa materia collassa. Immaginate una cosa enorme che collassa, si concentra in uno spazio ristrettissimo, manifestando una potentissima forza di gravità che ingloba tutto, anche i fotoni della luce. Ecco perché diventa nero. Però uno dice, è nero per sempre? No, anche i buchi neri non sono sempre neri. Non è stata fatta una ricerca sui punti neri. Quelli, anche quelli alla fine poi non sono sempre neri una volta che spariscono, però questa ricerca insomma è stata poi suffragata dall'Università di Como, se vi può interessare. Ma io ho una presenza, non so se definire un po' inquietante, comunque è una compagnia oggi qui in studio. In realtà è, diciamo, un ospite che si riserva un appuntamento, telefonico di 3-4 minuti al massimo. Si è presentato qui oggi un po' inaspettatamente, dice, sono qua, che facevo? Tenevo la porta. No, Stefano Andreoli. Ciao, buongiorno. Mi sembravi Margherita Hack con la passione con cui descrivevi questa cosa che mi ha appassionato moltissimo. I buchi neri non sono più neri, del resto nulla resta nero per sempre, anche Fini un po' ce lo dimostra, diciamo. Ecco, avete capito subito insomma un po' il trend che prenderà. Io sono abbastanza preoccupata perché quando ce l'ho quei 3 minuti al telefono io poi lo posso censurare, no? Invece in questo caso... Giammai. Stefano, al tuo posto. Stefano Andreoli, per chi non lo ricordasse, ma ormai lo sa quasi tutto il mondo, almeno, è il fautore, l'ideatore del blog satirico, più satirico della rete, più cliccato della rete, spinoza.it. Non so quanti premi, pazzeschi, anche un uovo di Pasqua, prima di Pasqua mi sembra. Tantissimi, vero? Tantissimi. Siamo anche candidati a un Grammy Award, ma... Probabilmente insieme lo vinceremo. Alla Pausini, mi sembra. Sì, esatto, qua. Insieme a Carla Bruni, che ha fatto questo bellissimo disco che so tu apprezzi molto. Leggevamo poco fa di questo bellissimo tributo a David Bowie. Un disco di beneficenza, perché Absolute Beginners, sì, esatto, il titolo ci dice, esatto, tutto. Tributo di Carla Bruni a David Bowie, i proventi del disco andranno a favore delle vittime del disco, cioè è una specie di beneficenza circolare che mi sembra un'iniziativa da appoggiare, insomma. Poggiano, io sono appoggiata saldamente alla scrivania, spero sino alle 15 con voi, 800 24 00 24, se c'è un fatto della settimana che volete commentare qui con libertà e anche con calma, sempre tenendo conto dei tempi ovviamente. Però prima di salutare quello che è il mio opinionista estemporaneo di oggi, che è in collegamento, volevo lanciarvi un appello. Ne lanciai uno anche settimana scorsa, allora magari quando possiamo vorrei mantenere una certa continuità. Avevo lanciato l'appello di una signora di Tarquinia la quale denunciava la scomparsa del suo pappagallo Chicco. Questo pappagallo era stato accusato di stalking perché dava del ciccione e del terrone a un vicino quando entrava o usciva di casa, era proprio una perseguitazione, e quindi lo hanno accusato di stalking. È scomparso improvvisamente questo pappagallo, la sua proprietaria ha dato ogni indicazione del piumaggio, anche il pappagallo, per ritrovarlo, ma non sono arrivati per il momento, insomma, diciamo, testimonianze. In questo caso invece l'attenzione la sposterei in Gran Bretagna, per chi partisse in questi giorni o ci ascoltasse anche di lì, perché un uomo ha fatto multare un'azienda alimentare che produce pane per 17.000 sterline, perché mentre faceva tranquillamente i sandwich, i toast meglio, sapete, il pane a cassetta, no? Con questo pacco per i suoi figli, che cosa si è trovato dentro? Tutta una parte bucata del pane, sembrava, dice, un po' di crosta che non si era molto cotta, invece alla fine cos'era? Un topastro, un topo, però questo topo senza coda. E quindi lui di cosa si è preoccupato, quest'uomo? Dove sarà finita la coda? In quale pacco? Ecco, se qualcuno trovasse la coda ci avvisi. 800 24 00 24. Hai qualcosa da dire, Stefano? No, nulla, è già abbastanza grottesca, diciamo che il topo nel pane, da un'altra parte c'era lo scarafaggio che una volta trovato il topo adesso tocca a lui contare. È molto bella questa cosa di trovare schifezze nei panini. Almeno non ti annoi poi. È una cosa come quando c'era acqua bomber, no? C'è un po' di terrorismo, uno è terrorizzato a dentare un sandwich, chissà cosa ci potrà mai trovare dentro. Facciamo tacere Stefano Andreoli e invece direi di presentare, di farvi sapere chi è oggi il mio opinionista estemporaneo, signore e signori. Massimo Teodori. Massimo? Eccomi. No, pensavo che tu, uomo compassato, ti fossi un po' spaventato di questo inizio. No, stavo pensando al pappagallo, chissà se l'hai trovato per caso. A Roma, magari vicino. Oppure la coda del topo. Quella non so se è viaggiata, magari sì, se esporta, non so se questa azienda alimentare esporta. Bisogna stare attenti, magari uno trova il pappagallo, la coda del topo, qualche altra cosa, allora... Facci sapere. Bisogna farlo sapere subito, è un legittimo proprietario. Massimo Teodori è in realtà persona serissima, è storico, politologo, ha scritto una quarantina di saggi, mi stavo leggendo tutti i titoli, Massimo, cito solo l'ultimo, credo che sia l'ultimo perché veramente ne ha scritti tantissimi, io non so il tempo dove lo trovi, ma comunque, per Mondadori, Pannunzio, dal mondo al partito radicale, vita di un intellettuale del Novecento. Pannunzio, sappiamo, grandissimo, uno dei maggiori intellettuali del Novecento, Massimo Teodori. Tra l'altro Massimo Teodori è stato uno dei fondatori, posso dirlo con cognizione di causa, del partito radicale, sì, Massimo? Penso di sì, penso che si possa proprio dire. E sei stato parlamentare anche per diversi anni. I pantaloncini corti, ma già allora c'era forse una certa passionaccia. Non avevi neanche 20 anni, no? Quando hai fondato il partito radicale. È così. E poi sei stato parlamentare per lungo tempo, adesso appunto abbiamo detto storico e politologo. Ma c'era una cosa che ti volevo chiedere prima di iniziare con il resto. Non mi ricordo più dove l'ho messa questa cosa, ma Massimo, ma prima io poi non posso venire. La ritrovo. No, pensando al topo, tu giochi a bocce per caso, Massimo? Non normalmente, qualche volta d'estate in campagna. Sì. Perché sai che ho scoperto che l'Italia è leader mondiale nel gioco delle bocce, ha ospitato i mondiali questa settimana praticamente. Dice sì, che nessuno la batte, soprattutto le donne. Ho anche scoperto che adesso è tornato da gioco popolare come era tradizionalmente. Sembra che sia ho letto qualche articolo. Sì, ci sono stati i mondiali. Sembra che è tornata una nuova moda che si diffonde. Tra i giovanissimi molto glamour, sì. Eccetera. Tu non giochi però a bocce, ha detto Massimo. Se invece tu scrivi libri, vuoi dirmi due cose di quest'ultimo libro per Mondadori su Pannunzio? Beh, questa è una biografia integrale di un personaggio che io ritengo forse uno dei maggiori intellettuali liberali, liberaldemocratici del secolo scorso, che non aveva mai avuto una biografia. C'erano state sempre tante chiacchiere intorno, molte persone che avevano collaborato con lui l'hanno tirato da una giacca, e più questo e quell'altro, andavo con lui a Via Veneto, di destra e di sinistra, cioè, ma nessuno aveva studiato sulle carte. Allora io ho lavorato per 3 o 4 anni su un fondo, il fondo Pannunzio, che contiene niente meno che 20.000 lettere di Pannunzio. preannunzio a tutto il mondo politico-intellettuale tra il 1945 e il 1968, quando è morto. E quindi ho tentato di fare una vera e propria biografia del personaggio in un'epoca fondamentale dell'Italia, perché quei 25 anni del dopoguerra è l'epoca in cui l'Italia diventa una nazione moderna, una nazione più civile, eccetera, e quindi era importante ricollocare il personaggio in quel contesto, tanto più che questa tradizione laica, liberale, eccetera, tende un po' a essere emarginata e dimenticata dai due grandi filoni, che è quello comunista paracomunista e quello democristiano e postdemocristiano. Massimo, ma adesso, visto che hai parlato appunto di un grande intellettuale del Novecento, quello che mi chiedevo è, a proposito del dibattito culturale e politico di questi giorni, appunto gli insulti, le bestemmie, eccetera, che cosa ne pensi? Sono un po' sconfortato. Stavo pensando ai buchi neri. Quando si è cominciato a parlare, ho sentito parlare dei buchi neri. Ecco, oggi la politica e più in generale la vita civile italiana può essere descritta come un insieme di buchi neri, perché c'è un buco nero sulla destra, c'è un buco nero sulla sinistra, c'è un buco nero al governo, nerissimo al governo, c'è un buco nero nei giornali, che sono diventati una cosa, alcuni insomma, non tutte, impossibile. Quindi questo paese, invece di essere un pieno di cose così che si confrontano, diverse, eccetera, è un pieno di buchi neri. Senti, questa è l'idea che mi è venuta in mente. Ma a me viene in mente che, siccome secondo questa ricerca che ha confermato quella scoperta di Stephen Hawking, anche i buchi neri evaporano, c'è speranza anche per la politica italiana, quindi questi buchi neri. La speranza bisogna averla, perché se non abbiamo una speranza che questo paese possa un po' risollevarsi, allora. Insomma, ci sono le persone che pensano ai fatti loro ci sono delle persone, io sono fra queste, che pensano che poi i fatti propri bisogna inserirli in una vita collettiva, in una vita civile, nel destino di un paese, di una città, di una comunità, eccetera, eccetera. E se non c'è un minimo di speranza, chi ha questo tipo di approccio alla realtà, di guardare se stesso, il rapporto con gli altri, con la nazione, con lo Stato, con la società, eccetera, eccetera, non ci sarebbe alcuna speranza. Io penso che siamo vicini a un Big Bang, poi quello che verrà dopo speriamo che non sia peggio di quello che c'è stato prima. 800 24 00 24, qual è la notizia sulla quale volete ritornare questa settimana? Ve ne citavo un po' all'inizio, ma un'altra cosa, a proposito dell'agone politico, diciamo, Massimo Teodori, questa questione è una delle questioni centrali adesso, no? del conflitto tra il centrosinistra e questo asse possibile che sembra si stia profilando, no? Tra PD, Futuro Libertà di Fini e UDC, per contrastare nelle prossime possibili elezioni, che sembrano in realtà abbastanza vicine. Maroni aveva detto una specie di intercettazione così radiotelevisiva, aveva detto ma tanto a marzo si vota, cioè per contrastare la maggioranza. È vero che la questione di fondo è la riforma elettorale. Questo porcello, il porcellum, forse Stefano Andreoli di porcellum mi sa che se ne intende, Stefano. Perché mi guardi così, Roberta? Così mi era venuto spontaneamente, devo davanti. Ma sembra che effettivamente chi vinca le prossime elezioni, per chi non lo dovesse sapere, e abbia alla maggioranza alla Camera, vota in automatico il Presidente della Repubblica. Quindi c'è una grossa posta in gioco per il 2013. Sì, però la cosa è un po' più complicata. Spiegacela tu, Massimo, visto che sei politologo. Innanzitutto io ritengo che effettivamente io non sono mai stato un berlusconiano, ma non sono stato neppure mai un anti-berlusconiano di quelli che ne girano tanti, insomma, perché odio gli integralismi da tutte le parti. Però effettivamente questa legge elettorale è una roba degradante, cioè il fatto che 1000 parlamentari, 600 la Camera, 300 del Senato, siano scelte da 4-5 persone, tra i loro camerieri, fedeli, fedelissimi, maggiordomi, accompagnatrici, parrucchieri, eccetera, eccetera, naturalmente con le eccezioni. Però è una cosa indegna di un paese occidentale. Quindi voglio dire, la questione adesso, indipendentemente dal sistema elettorale, occorre ridare la possibilità al popolo, a gente, ai cittadini, a ognuno di scegliersi il proprio deputato, che sia di una parte, dall'altra, di quell'altra ancora, e non consentire che ci siano 3-4 persone, i segretari, i presidenti, i capi dei partiti che fanno la lista dei loro amici. Insomma, questo avviene solo in Italia. Francamente è una cosa siamo arrivati a un punto che è molto insopportabile. Allora dicevi, ma chi vince l'elezione fa il Presidente della Repubblica? Non credo, perché probabilmente, adesso, se facciamo le elezioni con questo sistema elettorale, il Porcellum, sì, che cosa potrebbe accadere? Diciamo uno scenario possibile, sì, probabile, che alla Camera facciamo il centrodestra, se ci sono 3 poli, il centrodestra riprende la maggioranza, c'è cioè la maggioranza dei deputati. Al Senato invece, se ci sono, come è probabile, 3 poli, cioè centrodestra, centrosinistra e un terzo polo, quello di formazione, eccetera, eccetera, e nessuno c'ha la maggioranza. E allora non è vero che chi vince le elezioni alla Camera poi vince il Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica è eletto dai deputati più i senatori più i delegati regionali, e nessuno in questo caso avrebbe la maggioranza capace di eleggere il Presidente della Repubblica, quindi occorre un Presidente che sia concordato fra le diverse forze. Cinzia da Trento. Cinzia. Sì, ciao Roberta. Ciao Cinzia. Ecco, allora due cose volevo dire. Sì. Allora, la prima è che D'Annunzio si sarebbe trovato molto bene nell'epoca attuale. D'Annunzio o Pannunzio? D'Annunzio. Ah, il poeta D'Annunzio, noi parlavamo di Pannunzio, ma va benissimo. E poi perché si sarebbe trovato bene? Ho capito male. E sì. La seconda cosa è che veramente, cioè, io rimango senza parole, perché veramente l'apparenza inganna molto, specialmente ai tempi nostri, perché il signor Fabrizio Corona si era presentato come il macio, no? Cioè, macio non micio, donne, almeno io, dicevo, finalmente un uomo che si fa vedere, insomma, che dimostra di essere il macio, insomma, quello, a parte le maracchelle che dice, ha fatto. Ma... E poi invece dopo salta fuori questa storia con il signor Lele Mola, allora veramente, cioè, al giorno d'oggi guardare un maschio, bisogna stare veramente attenti, perché tra quelli che vanno a trans, quelli che diventano così come il signor Fabrizio Corona, cioè io avrei un po' di dubbi se mi trovo una persona davanti. Cinzia, io capisco, sì, capisco il tuo scoramento, ma voglio sperare che, insomma, la delusione di fronte a Corona non sia il fatto che ha avuto qualche rapporto gay, da quanto sembra, ma che ha fatto tanto il supermacio, ma in senso negativo, no? Quello che va a 250 sull'autostrada, anche un giornalista del Corriere lo raccontava, sì, che praticamente l'ha spostato con la macchina stessa, in questo spostamento d'aria, che uno arrogante, che uno che non ne frega niente, sì, che anche con le donne si comporta in un certo modo, e invece dici sei rimasta delusa perché diciamo che grattare Corona. Sì, scusa Cinzia. Sì, no, volevo proprio dire questo, no, cioè che veramente, cioè sembrava una persona, cioè se uno arriva al punto di andare insieme a un uomo, no, cioè vuol dire che l'uomo non è, che tutto quello che c'è è solo apparenza. Guarda, gli uomini che vanno con gli uomini, le donne che vanno con le donne sono donne e uomini, no. Non è che questo levi qualcosa al fatto dell'identità. È che lui personale aveva un... Cioè, si dimostrava in un'altra maniera, hai capito? Cioè, quello capito che volevo dire. Ho capito, cioè, si allora, presentava in un modo, cioè, ed era in un altro, per dire che lui fa il culto dell'immagine in generale, vive sull'immagine, tanto sì, è vero che ricattava anche con le immagini. Cinzia, ti ringrazio e mi spiace un po' della tua delusione, ma forse ci possiamo riprendere con un collegamento extraplanetario? Riflessioni da Marte. E che cosa si è visto dunque questa settimana quassù da Marte? Col telescopio puntato ad oltranza sull'Italica penisola, scusatemi la passione per l'Italia, però da questa postazione extraplanetaria si vedono cose che voi umani, così vicini tra voi, non potete vedere, forse anche solo per un problema di presbiopia. Ebbene, si dice da tempo che in Italia la gente si sta allontanando dalla politica, che la gente ne è disaffezionata, disamorata, persino disgustata, e invece no. La politica in Italia è la protagonista assoluta, è sulle bocche di tutti, negli occhi di tutti, nei panini di tutti, anche nei sogni di tutti, al di là che siano incubi o meno, ma c'è gente che di notte sogna i leader politici che fanno le cose più strane, molte delle quali non si possono dire qui. E fa niente se molti rappresentanti della politica italiana fanno cose poco ortodosse, insulti, ruberie, amplessi in vere condi, trame oscure, vorrà dire che li chiameremo i diversamente istituzionali. E via, che sarà mai, insomma. Ma insomma, vi dicevo, Non è assolutamente vero che gli italiani si stiano allontanando disillusi dalla politica. Niente affatto. La politica entra proprio dappertutto, anche nelle sale parto. Sì. Avete fatto caso a quanto ormai una sala parto possa assomigliare incredibilmente allo scenario politico italiano? Dunque, prendiamo una povera partoriente e mettiamola lì, bella bella sul lettino, pronta a partorire il suo presente e il suo futuro. Se la guardate bene, assomiglia un po' all'Italia. Guardatela bene. E dunque, che fanno ultimamente i ginecologi alla quale si affida la donna giunta al termine della gestazione per portare a buon fine la situazione? Ma è chiaro, come i politici, taluni ginecologi cominciano a discutere sul da farsi. Uno ha un'idea, l'altro però ne ha un'altra, e la discussione si fa sempre più animata. Mentre l'Italia, la povera partoriente, è lì che deve mettere al mondo il presente e il futuro. Di tanto in tanto le dicono: spinga, spinga, signore, tutto a posto, deve solo spingere, che diamine! Sì, spingi, spingi, ma la situazione non cambia, anzi rischia di peggiorare. Ma i ginecologi proseguono nella loro accesa discussione, che si fa sempre più accesa, tanto che volano parole di fuoco. E la donna: ma sto male, fate qualcosa. Ma i politici, cioè i medici, non si mettono d'accordo e si rinfacciano cose del passato e cose del presente, e c'è chi conta di più e quello che conta di meno. Volano gli insulti, le mascherine, i bisturi, la partoriente e il nascituro non ne possono più, ma quelli vanno avanti senza darsi pena di quello che ormai è un'emergenza. E lei la pianti di lamentarsi, urlano la partoriente mentre s'azzuffano. Non vede che tutto sotto controllo, ci pensiamo noi, le deve spingere, spinga, spinga, accidenti. In seguito da Marte, ve lo lascio immaginare. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Cose strane si vedono da Marte. Tu, Stefano, hai fatto qualche viaggio extraplanetario? No, però per rispondere a Cinzia da Trento, hai già detto tutto tu, in sostanza. Giudicare la virilità di una persona dai suoi gusti sessuali è un po' una cosa che credo debba essere superata. E poi, obiettivamente, come hai detto tu, criticare Corona per i suoi costumi sessuali è un po' spostare l'attenzione rispetto a qualcosa di più grande. Sarebbe un po' come criticare, per ipotesi, un Presidente del Consiglio che raccontasse barzellette sconvenienti, cioè una cosa, vabbè, questa è un'ipotesi però. 800 24 00 24, sentirei Francesca da Roma. Buongiorno. Buongiorno Francesca. Io stavo pensando, sentendo la vostra trasmissione, stavo pensando a quanta violenza c'è sotto in molti atti del quotidiano. Non si è più liberi di decidere se dare il bidello o no. Non so come si sentirà quella sorella che adesso è stata messa alla gogna. Stai parlando delle due sorelle, una a Padova e l'altra in Nuova Zelanda. Sì, assolutamente sì. Io credo che ci voglia rispetto della persona, se è una scelta, se no è un pochino come quando, non so se l'è mai capitato, uno deve mettere le crocettine in calce a quei contrattini che si fanno per cose stupide, dice sì, allora deve mettere la sua volontà di poter accedere ai suoi dati per le cose, se non la mette non può continuare. Allora dice che me lo chiede a fare, lo devo fare per forza, altrimenti vengo messa alla gogna. E così come quella povera persona invece su del Trentino, e non so come è finita, anzi dateci notizie, perché è giusto darci notizie, che non ha potuto partorire e tenersi la sua bambina, sì, perché gliel'ha tolta. Ma guarda, che scelta gli hanno fatto fare se poi gliel'hanno tolta dopo la nascita? È una cosa drammatica, e questa è violenza. Tu ti riferisci, Francesca, a un caso di una o due settimane fa, di questa giovane donna che aveva partorito una bambina che era troppo povera, gliel'hanno tolta per affidarla a qualcuno per darle la nozione. Noi paghiamo le rette ai bambini di tutto il mondo per adottarli a distanza, e l'Italia, si vede in Italia una persona italiana che deve dar via il bambino, anzi gli viene tolto il bambino, perché se lo lascia lei va bene. ma dateci notizie di questa persona, facciamo una rivoluzione, perché mi sembra impossibile che, essendo italiana, che a casa mia debba succedere una cosa simile. Massimo Teodori, grazie Francesca. Delle cose dette sin qua, volevi commentare qualcosa? Andiamo per esempio sui dati Istat, la disoccupazione è leggermente scesa nell'ultimo mese da 8,4% a 8,2%, però il dato secondo me è sconvolgente, che una donna su due in Italia non ha un lavoro. Sì, volevo soltanto dire, a proposito di quel commento che ha fatto la signora su Corona, eccetera. Io sono assolutamente indifferente di discutere queste cose di cui non importa assolutamente nulla, che però credo che ognuno i propri fatti sessuali se li amministra come vuole, nella direzione di come vuole, e nessuno può mettersi bocca, insomma. Dopodiché, se questi diventano fatti pubblici, è meglio che non lo diventassero, insomma. Poi le cose personali tali devono rimanere senza possibilità di critica. E la questione della disoccupazione delle donne è una questione, io credo che i dati impressionanti sono quelli che riguardano le donne, i giovani e il sud. Questi mi pare che siano i tre dati in cui noi abbiamo delle percentuali che superano tutte le altre percentuali degli altri paesi europei. E la cosa che mi meraviglia è che noi, il dibattito pubblico, diciamo i giornali e la politica ovviamente, da mesi e mesi non si occupano di questi fatti, che sono i fatti che ci stanno travolgendo, perché poi c'è un altro dato ancora che ci sta travolgendo, è che il debito pubblico italiano sta continuamente salendo e l'Unione Europea ci sta mettendo fuori gioco. Cioè, questi due dati, quello della disoccupazione e quello del debito pubblico, sono cose che sembrano non interessare nessuno, perché insomma, se voi leggete i giornali da sei mesi a questa parte e via di seguito, non troverete una riga se non magari nelle pagine specializzate. E questo è veramente il grande problema, che noi dobbiamo ogni giorno leggerci di questo chiacchierito. Ma Massimo Teodori, secondo te perché siamo arrivati al 151esimo giorno senza ministro dello sviluppo economico? Qualcuno dice sì, però Berlusconi è all'interim, però un presidente del Consiglio, è molto impegnativo farlo, può fare anche no in una situazione come questa. Lo dico con tutta franchezza, e con tutta direzione, perché abbiamo un Presidente del Consiglio che non è un uomo di Stato, è incapace di essere uomo di Stato, è un grande leader di coalizioni elettorali, capace di prendere i consensi, ma poi non sa governare, perché insomma, detto in una parola poverissima, chi ha avuto in quest'ultima elezione, come del resto nelle elezioni precedenti, delle grandi maggioranze come non ci sono mai state, in cui si poteva fare tutto, si poteva fare assolutamente tutto, e non ha fatto sostanzialmente pressoché nulla. Allora, se vogliamo trarre un bilancio da questa storia quindicennale, a Berlusconi, a cui pure tanta gente ha guardato come una possibile alternativa e via di seguito, dobbiamo dire che è un personaggio straordinario, capace di vincere il consenso, ma assolutamente incapace di governare né come Presidente del Consiglio né nei collaboratori che si sceglie. Senti, secondo te si vota a marzo o no, Massimo Teodori? Sì, si vota. E si chi vota. Vince? Io chi lo, vince? Do lo do al 90%. Al 90%? Tra marzo e aprile. Chi vince, secondo te? Beh, se andiamo con tre coalizioni, cioè centrodestra, centrosinistra e una coalizione di centro, alla Camera vince il centrodestra, quindi prende il premio di maggioranza. Non è che vince, prende il premio di maggioranza, perché sinistra e centro dividono i voti e sono superati da quello di... Mentre il Senato non vince nessuno, quindi è una situazione molto aperta, il che significa che stiamo punto da capo. Annalisa da Mantova. Il tema si inserisce anche nelle affermazioni che ho appena sentito di Massimo Teodori. Sì. Io vivo nella pianura padana, vivo a Mantova. Posso dirvi con molta tranquillità che di disoccupati non ne conosco. Ah, il tema fortunata. Della disoccupazione va inserito in un contesto, perché questo argomento secondo me si ricollega più in generale a un tema di formazione della nostra classe dirigente o di formazione tout court. Il problema della occupazione o disoccupazione è che i nostri giovani spesso hanno fatto studi di liceali, e nelle nostre industrie del nord, che sono molto alla ricerca invece di qualifiche più concrete, di tornitori, di operai specializzati. Di operai specializzati, sì. Ecco, c'è una grandissima ricerca, ma è stato anche un tema di molte vostre trasmissioni della mattina durante la settimana, questo, e non trovano ragazzi disposti ad entrare nel mondo del lavoro. E quindi si parla di quel concetto di intellettuali pretenziosi, no? e disoccupati. E poi anche Massimo Teodori ha parlato poi di debito pubblico, ma io ho colto dai giornali di questi ultimi 2-3 mesi che il nostro ministro Tremonti è riuscito a far passare a livello europeo un concetto molto importante, che è quello del debito aggregato, e cioè che l'Italia è indubbiamente un paese con un debito pubblico il terzo del mondo, molto importante, ma è altrettanto vero che le famiglie sono molto ricche e che in virtù di questo rapporto... Tutte ricche, Annalisa... Avrei qualche Prego. Dubbio. Tutte ricche le famiglie italiane? No, non ho detto, sto dicendo che la ricchezza, l'80% mi pare delle famiglie italiane è proprietaria di una casa. Sì. Esatto, ecco. E questo è un dato molto molto positivo. Il ministro Tremonti ha fatto passare questo concetto per cui se siamo così indebitati come Stato è altrettanto vero che siamo però molto ricchi, il risparmio è ancora molto forte. Diciamo che il risparmio è forte, ma non è che siamo ricchi automaticamente. Annalisa, ma posso chiederti di cosa ti occupi, se posso? Sennò... Io sono un avvocato. Però sono, ovviamente, e si capisce, immagino, io sono impegnata politicamente nel Partito del Popolo della Libertà e ho cominciato dal gradino più basso, cioè dal livello territoriale e provinciale. Senti, quando si parla di formazione della classe politica, proprio in questo io vorrei dire che nemmeno la classe politica che ha rinvenuto Berlusconi quando nel 94 è sceso nell'agone politico era una classe politica eccellente. E in particolare mi stupiscono e un pochino mi lasciano perplessa le posizioni politiche dei cinquantenni di oggi, Casini, Fini, Rutelli, perché trovo che siano uomini che mancano di una enorme qualità che è la concretezza. Sono persone che a mio giudizio non hanno mai dovuto scontrarsi con il dato della responsabilità. Cioè Annalisa, dover... però ti chiedo, fammi l'esempio di un uomo politico in questo momento che ha un grande senso della concretezza. Fammi un nome. Silvio Berlusconi, Tremonti, sono due nomi che per me valgono moltissimo. Senti, e la prima parte dell'azione di governo del presidente Berlusconi credo che sia stata un'azione di grandissimo... Cioè, nessuno dice che in 50 giorni ha eliminato il problema, non lo dice più nessuno, che in 50 giorni ha tolto le immondizie che ci rendevano famosi nel mondo, tristemente. Com'è che sono ritornate le immondizie? No, sono tornate perché... è la raccolta differenziata che ha un nome, cioè l'attuale sindaco di Napoli, che è problematica e che dà dei problemi, perché il termovalorizzatore funziona benissimo. Ecco, queste sono cose, sono nozioni che si trovano sui giornali però di questi giorni, però vanno lette, non c'è soltanto spazio, Annalisa, alla questione. No, è chiaro il tuo pensiero, ti ringrazio. Vorrei sentire un po' il commento di Massimo Teodori anche sulla concretezza, Massimo. Sì, innanzitutto i due punti che ha toccato la signora Annalisa, cioè ha ragione che la formazione italiana è una formazione non indirizza verso il mercato del lavoro, dici che non è congeniale al mercato del lavoro, per cui ci sono quegli iscritti che ci sono, però teniamo presente che la sua situazione è ben diversa da quella del sud e di altre zone dell'Italia, perché la signora Annalisa viene da una delle zone più ricche e benestanti d'Italia, con maggiore occupazione eccetera, quindi che non si può essere estesa a tutta Italia. La seconda questione, il ministro Tremonti ha proposto una maniera diversa per calcolare il debito pubblico, ma questo non toglie nulla che il debito pubblico, quello come viene stimato in tutti i paesi, è un debito pubblico che nell'ultimo anno è aumentato pericolosamente e che l'Unione Europea sta prendendo dei provvedimenti rispetto all'Italia su questo debito pubblico che aumenta. Massimo Teodori, scusa se ti interrompo, mi è venuto in mente, citando Tremonti, no? Leggevo ieri da un'agenzia dell'ANSA una dichiarazione di Tremonti, era la festa della libertà, del popolo della libertà di Milano, ha detto: quando dicono che il PIL, prodotto interno lordo, cioè la ricchezza del nostro paese, in Italia è inferiore a quello degli altri paesi è perché loro hanno il nucleare e in Italia non c'è. Questo quindi il vulnus, la questione, noi non abbiamo il nucleare, quindi per questo che abbiamo il debito. Beh, questa non può essere la sola ragione, ma certamente da noi la mancanza, il grande costo dell'energia che dobbiamo importare dall'estero e la mancanza del nucleare è uno degli elementi che rende meno accelerato il nostro sviluppo, anzi lo rende ritardato, su questo non c'è dubbio, però non è l'unico elemento, è uno dei tanti elementi. Per tornare invece alla questione principale che poneva la signora, noi dobbiamo fare un ragionamento, io faccio un ragionamento da storico, da 15 anni, da 16 anni, diciamo c'è una larga egemonia in termini di voto da parte della coalizione di centro, da parte di Berlusconi, chiamavi Berlusconi. Mm. Le grandi riforme, adesso lasciamo stare a Napoli se ci sono o no le immondizie. A proposito di concretezza, dicevi tu. Diciamo, le grandi riforme della modernità, della modernizzazione dell'Italia, chiamiamo la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia, non nel senso del processo breve o lungo, ma in Italia ci sono 15 milioni di procedimenti, di 15 milioni di persone che aspettano 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, eccetera, eccetera. La riforma istituzionale sono tutte cose che una maggioranza così larga avrebbe potuto fare per la prima volta nella storia italiana. Noi dobbiamo, il bilancio che dobbiamo fare è che le grandi riforme che gli italiani si aspettavano e che magari si aspettavano proprio da Berlusconi quando è sceso in campo rispetto alla Prima Repubblica, eccetera, eccetera, tutto questo oggi dobbiamo prendere atto che non è avvenuto, che ci sono state solo delle promesse, punto e basta. Poi è inutile andare a guardare i dettagli, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, però il problema della modernizzazione, cioè noi oggi l'Italia, 15 anni dopo l'egemonia berlusconiana, è molto più arretrata di quanto lo fosse 15 anni fa. Questo è rispetto agli altri paesi europei in termini di comparazione dello sviluppo dei paesi e di modernizzazione. Cioè, questo è il punto fondamentale. Massimo, ricordo il numero verde all'ascoltatrice e all'ascoltatore. Ancora diversi minuti per chiamare sulle notizie della settimana, su quello che sentite, se volete commentare quello che stiamo dicendo. 800 24 00 24, per dire la vostra notizia sulla quale volete tornare oggi. 800 24 00 24. Una notizia, una cosa che vedo adesso, caro Stefano Andreoli, e vorrei tu commentassi, è una dichiarazione di Marchionne, amministratore delegato della Fiat, che dice: Italia vergognosa, perso il senso delle istituzioni, qualcuno ha aperto i cancelli dello zoo. E io guardo te, che cosa... Intanto, come sempre, ti invito a moderare i termini, però sono qui per essere il bersaglio della tua ironia, più che per farla mia volta, quindi che si può aggiungere alla situazione? Qui sono stati sollevati tantissimi temi. Ma secondo te è vero che qualcuno ha aperto i cancelli dello zoo? Qualcuno ha visto una giraffa forse? Ma può darsi, probabilmente un po' di questi animali fuggiti sono andati a ricoprire cariche istituzionali. È bello che ci sono stati tantissimi temi sollevati in questi ultimi interventi, lo stato politico, è bello che si vagheggi di governi futuri di larghe intese, questo partito con quell'altro, ma i partiti non si riescono nemmeno a mettere d'accordo al loro interno. Il PD, ora Veltroni, ha fatto mostra di volersi un po' smarcare dalla gestione di Bersani, i Finiani un po' hanno dato la fiducia, un po' no, cioè è una situazione veramente grottesca. Anche questa del lavoro, ci sono un po' di statistiche che, per quanto Annalisa sia stata convincente e preparata a esporre la sua posizione, dicono il contrario: un laureato su due in Italia è precario e l'altro lo invidia, e questo è il fatto, mentre una brutta bestia, l'invidia. Un'altra statistica, un italiano su quattro è di tempi recenti, questa statistica, un italiano su quattro è depresso, è quello che paga le tasse degli altri tre, perché un altro piccolo problema che è stato sollevato è quello dell'evasione fiscale in Italia. E poi l'Istat testimonia nel suo ultimo rapporto: in Italia ci sono 8 milioni di poveri, almeno stando a quello che dicono i loro commercialisti, e questo è un altro tema che è importante. Bisognerebbe fare una trasmissione intera su tutte le cose puntualizzate da analisi. Anche se lei, voglio chiedere, visto che nel partito per cui lei così attivamente partecipa e lamenta la carenza di formazione della classe dirigente, ma anche di classe politica, perché Annalisa fa politica nella provincia di Mantova e Maria Stella Gelmini e Maria Carfagna sono ministra? Non voglio, non voglio che tu mi metta in... Non mettermi neanche tu, ma ecco, non, appunto, non mettiamoci. Sì. Parliamo d'altro. Ecco, 800 24 00 24, se avete ancora voglia di esprimere le vostre opinioni sui fatti della settimana. Mio opinionista estemporaneo, sempre in collegamento, è lo storico politologo Massimo Teodori. Qui a farmi compagnia c'è Stefano Andreoli di Spinoza.it. C'è Elisabetta da Roma, ecco, così do subito spazio. Elisabetta, ti prego, scusami se riesci a essere sintetica, Elisabetta. Sì, cercherò di fare quello che posso. Grazie, sforziamoci, sì. Comunque è molto fuorviante, perché poi sempre ogni argomento proposto è sempre molto interessante. Io sono, mi fa piacere, una cassa integrata e quindi avrei voglia di esprimere la mia opinione. Comunque non ho telefonato per questo, perché sarebbe una polemica sterile. No, io ho telefonato più che altro perché, senza togliere nulla dall'importanza degli altri argomenti, anzi tutt'altro, ritengo che non si parli mai di quanto male a volte faccia la stampa a mettere in prima pagina scandali, scandalucci vari, adesso Corona, quando non è Corona sicuramente qualcun altro, senza tener conto che alle spalle di questi grossi personaggi c'è sicuramente un bambino, una bambina. E trovo assolutamente immorale che la stampa non faccia considerazioni per dare. È vero, si vendono le testate giornalistiche dei giornali di gossip, se ne vendono tante perché la gente si è affamata di queste cose, però poi dopo nessuno pensa che alle spalle di questa notizia si può ferire mortalmente, in modo veramente pesante, la serenità di un bambino, e forse anche per sempre. Come mai? Come mai nessuno si dà un contegno o frena le notizie o le Lo so, questa è veramente una vecchia diatriba, Elisabetta, questa della deontologia, dell'etica, eccetera. Fai bene comunque a rimarcarlo, Elisabetta, e ti ringrazio. 800 24 00 24, c'è Margherita da Catania, anche lei estremamente sintetica. Sei Margherita? Sì, buongiorno. Buongiorno Margherita. Roberta, noi seguiamo, la famiglia Fichera da Catania segue veramente con molto molto interesse la vostra radio e in particolar modo la tua trasmissione. Grazie Margherita, saluti a tutta la famiglia allora. Sei veramente molto in gamba, veramente. Grazie. Molti molti complimenti. Io voglio essere molto molto sintetica, sì, perché del resto quello che volevo dire lo hanno detto le persone che mi hanno preceduto. L'unico problema è che veramente rimaniamo molto delusi e molto amareggiati della politica di oggi. E si parla di casa di Monte Carlo, si parla di Corona, quando veramente i problemi della gente sono ben altri. Cioè, le persone che si uccidono perché perdono il posto di lavoro, nessuno ne parla, e non mi sembra una cosa umana. No, mi ricordo anche in questi giorni a Castellammare di Stabia, no? Dove potrebbe chiudere Fincantieri, c'è stato un suicidio. Margherita, ti ringrazio, sei stata appassionata ma sintetica, grazie di nuovo, saluti a tutta la famiglia. Ma oltre a tutti gli ascoltatori che adesso sono in ascolto, credo abbiamo un appuntamento, questo non si può mancare, con Valeria Della Valle, come sempre linguista della Sapienza di Roma, la mia linguista preferita, alla quale a sua volta chiedo, diciamo in una strettezza di secondi, cara Valeria, di... Povera Valeria, no dai, diciamo un minuto e 43 te lo posso concedere. Valeria, che vuol dire SPQR? Perché ogni volta c'è un significato? Non c'è mai stato un acronimo con tanti significati diversi, diciamo, e ricchi anche... Sì, pronto, non so se mi... Sì. Io sento malissimo. Sì, Valeria, perché tu come al solito sei al mare, sulla spiaggia, mentre raccogli le stelle marine, poi ti concentri anche su quello che devi dire. SPQR, Valeria, mi senti? Pronto, Valeria? No, Valeria forse sta nuotando in questo momento. Proviamo a riprenderla un attimo, dire che c'è un problema di collegamento. Mentre chiedo a Stefano Andreoli, non è vero che i politici sono soltanto disuniti, che sono fazioni opposte? C'è qualcosa anche che unisce il centro-sinistra e il centro-destra, i due leader, anzi, Bersani e Berlusconi, tutti e due hanno compiuto gli anni il 29 settembre, quindi non possiamo dire che niente li unisca, no? Esatto, 29 settembre, come la famosa canzone dell'Equipe 84, compleanno di Berlusconi. La domanda, come ogni anno, è quanti anni gli dareste? Ecco, questa... È un po', perché sono 74, sono veramente tanti, e nello stesso giorno compiono gli anni anche Bersani e Mafalda di Quino, il famoso personaggio dei fumetti. Bersani e Mafalda, ecco, uno solo dei due esiste di questi due personaggi, ma è difficile appunto stabilire chi è, esatto. Però comunque è curioso, 29 settembre sia per Bersani sia per Berlusconi, è veramente un caso statisticamente rilevante. Penso sì, bisogna fare una statistica mondiale. Valeria Della Valle. Sì, signora, sento tutto. Si è accorciato il tempo. Sarò ancora più fulminea. Vai fulminea. Mi chiedevi della sigla cui si è tanto parlato, il Senatus Populusque Romanus. No? Il significato lo sappiamo tutti. Più o meno. In realtà potrebbe anche corrispondere a Senatus Populusque Populus Quirites Romani, e i Quiriti erano i cittadini di Roma nella età più antica. Beh, insomma, concludo dicendo solo che le battute vanno benissimo quando vengono da Asterix o dai comici, forse un po' meno da chi è ministro, ma vorrei solo ricordare invece, fuori di polemica, che questa sigla non è solo rappresentata nello stemma comunale di Roma, ma racchiude in sé i concetti che rappresentano il potere, che rappresentavano il potere della Repubblica Romana, cioè il Senato e il popolo, i patrizi e i plebei, che erano a fondamento dello Stato romano, e sullo Stato romano, che ci piaccia o no, si basa la storia della nostra civiltà, anche di chi si autodefinisce padano. Tutto qua. Grazie Valeria Della Valle, in questo momento non so se romana, toscana, o in quale parte d'Italia sta, ma sta bene dappertutto. Grazie Valeria. Grazie Valeria. Abbiamo pochi minuti ancora per chiudere. C'è un accompagnamento per Valeria. E c'è Loretta da Napoli. Loretta, se riesci, diciamo, in 12 secondi, Loretta. Volevo innanzitutto buon pomeriggio, poi volevo comunque dare la mia opinione. Mentre chiedo scusa a Massimo Teodori e a Stefano Andreoli, così in questo modo li favorisco un po', pensate a una conclusione, Prego Loretta, scusa. Allora, innanzitutto volevo intervenire sulla questione dell'immondizia che l'avvocatessa di Mantova ha sollevato, quando poi ha parlato di una cosa che lei comunque non sa minimamente. Allora, innanzitutto il termovalorizzatore sì, ha sempre funzionato al 30%, perché è un progetto di 15 anni fa, e per fare l'ammodernamento ci vogliono 1 milione di euro. Seconda cosa, quella differenziata la facciamo, e la facciamo benissimo, tanto è vero che ci sono gli ispettori che se non ritrovano qualche anomalia fanno delle multe anche abbastanza salate. Quindi mi sembra assurdo che una persona che abita la Pianura Padana venga a parlare comunque di qualcosa che non sa o comunque ha letto. Loretta, ma adesso l'immondizia c'è o non c'è a Napoli? Tu che sei allora a Napoli? Dove sono io? No. Cioè, che abita al centro. Beh, ovviamente le zone di periferia c'è una situazione critica, perché ci sono dei problemi di organizzazione tra questo termovalorizzatore, che comunque adesso si è inceppato, non si è capito cosa abbia, di scariche che comunque si sono riempite, e quindi c'è bisogno di organizzazione, cosa che nessuno ci ha dato. Loretta, ti ringrazio, salutaci tanto Napoli. Adesso, mentre sto per concludere, andrei prima a concludere, perché Valeria, a Massimo Teodori. Massimo, come concluderesti tutta la nostra chiacchierata di oggi? Ma che Valeria Della Valle ci ha ricordato una cosa molto importante, che la nostra storia nasce proprio da quella sigla, Senatus Populusque Romanus, o quello che è. E direi che noi dobbiamo tornare a quella cosa lì. Che significa quella cosa lì? Quella cosa lì significa delle istituzioni degne di questo nome e non occupate dai barzellettari. Detto così, molto così alla buona, e il popolo con capacità di decidere, e non messo come con l'attuale legge elettorale, messo soltanto a subire quello che pochi eletti decidono per lui. Vedremo. Quindi, se questo porcello qualcuno ammazza. Ci ha ricordato che questa origine della nostra storia è una cosa importante su cui dobbiamo pensare. Grazie Massimo Teodori, grazie di essere stato qui a Non ci sono più le mezze stagioni, mio opinionista estemporaneo di oggi. Stefano Andreoli. Sono qua, sopporterò anche l'assenza della mia sigletta e andiamo avanti, agganciandoci a Massimo. Berlusconi racconta una barzelletta che ha fatto discutere. La barzelletta era la conclusione in 3 anni della Salerno-Reggio Calabria. Ecco, questa è la barzelletta più grande che ha raccontato Berlusconi in questo periodo. Chi vive da quelle parti assicura: sono capaci tutti a metterci 3 anni, il difficile è metterci 3 ore a fare la Salerno-Reggio Calabria. Un'altra notizia invece di tutt'altro tenore: Contador, vincitore del Tour de France. È tutta colpa del filetto, ha detto, quindi tutta non colpa tirare del fuori filetto. Mezzo cosa. Contador, vincitore del Tour de France, è risultato positivo all'autovelox. Ecco, e questo dovrebbe farci già capire il problema. Contador aveva già annunciato, facendo sorgere qualche sospetto, il suo prossimo passaggio in MotoGP. Ecco, questo quindi ci fa un po' capire. Le analisi che lo vedono appunto indiziato di doping risalgono lo scorso 23 luglio, ma vengono fuori solo ora, perché, come tante volte succede, si era dimenticato di andarla a ritirare. Mi raccomando, quindi memoria delle cose che facciamo, delle cose che dobbiamo andare a ritirare. Stefano, direi che possiamo chiudere qui. La chiudiamo qui. Vuoi dire sì, qualche sì, altra inezia? No, assolutamente no. Sono contento così. Ci rivediamo sabato prossimo. È importante accontentarsi. Grazie anche a Stefano Andreoli, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.